Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati con Ferribot, sono Insergante, il traghettatore. Questa settimana parliamo di alimentazione, che certo è un tema molto caro agli italiani, anzi carissimo. Secondo il rapporto della Censis Coldiretti, il 37% degli italiani vorrebbe mangiare in maniera più sana, ma non ci riesce. Un bel segno, perché certamente anche questo concorre all'aria che tira ormai, e non solo nel nostro paese, sui temi della sostenibilità e della ricerca di un benessere diverso, di un benessere più sano. Per questo la puntata di Ferribot è dedicata ad un'iniziativa che adesso conoscerete nei particolari, di Fondazione Accenture, che ha lanciato un concorso sulle idee per alimentarsi bene e vivere meglio utilizzando la tecnologia. Ne parliamo subito dopo il sommario. Gli italiani buongustai predicano bene ma mangiano male. Secondo Censis Coldiretti, il 37% vorrebbe nutrirsi in maniera sana ma non riesce. Alimentarsi bene, vivere meglio. Un concorso della Fondazione Accenture premia le idee vincenti per migliorare il rapporto con il cibo e i giovani si affermano. Una webcam puntata sul cuoco, un avatar cavia per la dieta ideale, un sito su come ottimizzare i cibi inutilizzati in frigorifero. Ecco l'idea 360. Manca da aggiungere come particolare che l'iniziativa di Fondazione Accenture con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, ci sono 10 dei finalisti che conosceremo, e che il vincitore non è solo gratificato dalla visibilità, ma anche da un congruo budget che serve a realizzare l'idea aggiudicata. Con noi Bruno Ambrosini, che è segretario generale della Fondazione Accenture. È un'iniziativa assolutamente originale, in generale voglio dire, su un tema, quello dell'alimentazione, che forse trascuriamo un po' troppo in questo paese. Ritengo che il tema dell'alimentazione sia importante soprattutto in un paese come l'Italia, dove la ricchezza e varietà degli alimenti è significativa e, come tu sai, varia non solo da regione a regione, ma addirittura da paese a città. Ecco, l'idea 360 è un marchio della Fondazione Accenture, quindi già chiaramente questo marchio già si spiega un po' da solo, no? ed è in quest'ambito che è stato promosso il concorso. Sì, idea 360 è una piattaforma tecnologica partecipativa basato sull'Web 2.0, ma noi amiamo definirle il luogo dove le idee accadono, perché il cuore di Idea 360 sono i concorsi per idee, concorsi che noi facciamo e che hanno questa caratteristica, che non solo noi facciamo dei concorsi per lanciare delle idee progettuali, ma li realizziamo. Quindi c'è una promessa concreta alla fine del concorso. Concreta, diciamo anche fino a che punto concreta, diciamo pure la cifra. Concreta ovviamente varia da concorso a concorso, ma diciamo in linea di massima 5.000 euro per l'idea che vince, diciamo, la fase progettuale, il concorso per idee, e poi nella fase realizzativa, per prendere ad esempio il primo concorso che abbiamo fatto sull'alimentazione, noi chi vincerà il bando, facciamo un bando per realizzare il progetto fino a 100.000 euro. Che è certamente una cifra significativa. Ecco, dicevi, segretario, Idea 360 è partecipativo, quindi stiamo parlando di un'iniziativa che vive su internet, su 2.0, quindi contatto è diretto con chi si candida. Sì, assolutamente, è una iniziativa che noi abbiamo lanciato per la nostra community, quindi la community di Idea 360, ma anche per tutti coloro, giovani talenti e non solo, che vogliono partecipare, che hanno voglia di proporre delle idee, che hanno voglia di far parte di quell'intelligenza collettiva in cui noi crediamo. E di cui abbiamo tanto bisogno, aggiungo io. Silvia Naratone è la prima. Abbiamo pensato noi di utilizzare Ferribot per parlare, riconoscere e quindi premiare anche noi questi giovani che hanno avuto queste idee, e ve le raccontiamo anche. Cominciamo con chi ha vinto, con Silvia Naratone. Silvia, sei in linea? Sì, ciao. Ciao, tu ci dicevi che vivi a Milano, ti occupi di? Io mi occupo di comunicazione scientifica e sono anche un'insegnante di matematica. E quindi un po' spiega anche la tua idea. Descrivicela. Si chiama Nutrilandia, il paese della buona alimentazione. Qual è la tua idea che è piaciuta tanto? Poi sentiremo anche a chi. La mia idea è quella di fare un progetto educativo rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori, quindi 11-14 anni, che in qualche modo li educhi a una sana e corretta alimentazione, li informi sulla ricchezza del patrimonio gastronomico italiano e anche li avvicini alle professioni tradizionali e anche non legate al settore agroalimentare. E questo progetto educativo appunto dovrebbe basarsi innanzitutto sul gioco e sulla condivisione, quindi prevede la creazione di un sito interattivo in cui i ragazzi, oltre a comunicare, chattare, postare, partecipano a un gioco online dove ci sono quiz, ricerche sul territorio, quesiti. Poi prevede un lavoro di gruppo e diciamo l'utilizzo della creatività e del costruire, che per i ragazzi è molto importante, e questo attraverso dei concorsi invece fatti con la classe e quindi con l'aiuto degli insegnanti e con un lavoro interdisciplinare. E infine si poggia sul potere della narrazione, per cui tutto il progetto dovrebbe essere sostenuto da questa narrazione, da questo racconto a puntate che dovrebbe tenere i ragazzi legati al progetto e soprattutto permette loro di identificarsi con eventuali personaggi. Bene, grazie Silvia, complimenti ancora, a presto. Ciao. A presto, ciao. Ciao Silvia. Segretario, questo progetto quindi sarà realizzato con i soldi della vincita sostanzialmente? Beh, assolutamente, questo è l'impegno che abbiamo preso e quindi lo realizziamo. Come ho detto prima, faremo un bando che verrà pubblicato in gennaio. Per scegliere evidentemente chi ci propone dal punto di vista della realizzazione il progetto migliore. Chi è la giuria che ha scelto quelli meritevoli? Sì, allora una delle caratteristiche di Idea 360 è che come tu hai detto prima è online, funziona attraverso la rete. Noi avevamo due giurie. La prima giuria era una giuria online formata da giovani esperti che hanno selezionato le prime 10 idee finaliste. Dopodiché queste 10 idee finaliste, l'idea vincitrice è stata proclamata invece da una giuria offline, quindi da una giuria che si è riunita, che prima ha ricevuto il materiale, ha analizzato le idee e che era formata dal comitato esperti della fondazione e da esperti delle varie materie che erano implicate diciamo in questo concorso. Bene. Rita Meloni non ha vinto il primo premio, ma merita di essere conosciuta e anche di raccontarci il suo progetto. Rita, sei in linea? Sì, sono in linea, grazie. Grazie a te. A tu chiami, dove ti abbiamo chiamato noi? Allora, io rispondo da Milano, lavoro in Fondazione Politecnico di Milano, mi occupo di progettazione, raccolta fondi per progetti di ricerca di largo respiro, tecnologica, scientifica e non solo, porta avanti anche altre iniziative di interesse personale come va bene Food Player e altri progetti sempre legati all'innovazione sociale. Ecco, infatti Food Player è un progetto... È il progetto che tu hai candidato a Idea 360, dove si parla di avatar, che certamente è un argomento molto affascinante, specialmente in questi ultimi mesi dopo il fantastico film. Sì, allora Food Player è proprio si basa su degli avatar. Che cos'è? È un browser game online dove appunto il giocatore può scegliere da che avatar essere rappresentato. Se uomo, donna, se l'avatar vive in campagna, in città, in pianura, in provincia e di conseguenza lo alimenta. Se è bravo, cresce la complessità nel gioco, quindi l'avatar poi si nutre bene, cresce bene, vive meglio. Se invece banalmente lo nutre male, l'avatar inizia ad avere dei problemi, tutti quando ci nutriamo male. È questo, è chiarissimo, abbiamo sentito delle campane, sentiamo delle campane, perché questo vuol dire che è una trasmissione vera, che tu non sei un avatar. Grazie, Rita, e complimenti. Va bene, grazie. Alla prossima. A tutti. Grazie. Bruno Ambrosini, ecco, qui voglio dire, tu sei stato anche a lungo direttore marketing di Accenture, sì. No? Quindi stiamo parlando dei nuovi mondi digitali a cui a suo tempo magari non eri di collegato, non è, che invece sono, rischiano di essere dominanti. Quello che si riesce a fare con un digitale oggi era impensabile 10 anni fa in termini di diffusione, di messaggio, di comunicazione. Assolutamente, io credo, e tra l'altro una delle cose che noi avevamo chiesto con questo concorso era che ci indicassero chi partecipava, a chi si rivolgevano, e dicevamo, premiavamo chi aveva un audience importante, e questo si raggiunge attraverso le tecnologie, è evidente. Adesso abbiamo Deborah De Silvio. Ciao Deborah. Buongiorno. Ciao, tu vivi dove? Io vivo a Roma, vivo il lavoro, sono impiegata in una società di consulenza e niente. Hai presentato alla Fondazione di Bruno Ambrosini Cestino Italiano, vuoi raccontarci italiano, cosa è? Sì. Allora, gli ingredienti sono semplici di questo progetto, sono un portale, uno chef, due assistenti tuttofare, una cucina attrezzata e poi un pony per le consegne. Allora, il momento fondamentale di questo progetto è la frequentazione del mercato, nel senso che noi abbiamo uno chef che ogni mattina si recherà al mercato e acquisterà i prodotti di stagione seguito da una webcam. In questo modo avremo un'importante guida all'acquisto, a cosa comprare nella stagione, a quale scelta si può fare. Chi lo segue sa che tipo di piatto può preparare in quel giorno, diciamo, no? Più o meno. Esatto, mm-hmm. Esatto. Poi, tutto sarà ripreso ovviamente da una videocamera e sarà messo subito online nel sito del Cestino Italiano. Dopodiché ci sarà la preparazione, quindi ci spostiamo proprio nello studio dove c'è la cucina del Cestino Italiano e lo chef ci guida alla preparazione degli alimenti, e la preparazione avviene tenendo in considerazione i giusti apporti calorici, e le ricette sicuramente saranno quelle della... Sì, nel regime dell'alimentarsi bene e del vivere meglio. Esatto, certamente. Esatto, a quel punto della tradizione alimentare. Chi segue sul sito cosa fa? Può ordinare quello che sta vedendo, esatto, può ripetere il piatto, sul sito, ma anche ordinarlo. Sul sito, mm-hmm. Settimanalmente verrà pubblicato il menù e chiunque ovviamente è nella città dove ha sede il Cestino Italiano. Io ho pensato inizialmente nelle grandi città, quindi possiamo partire da Roma, da Milano, poi può essere un progetto replicabile. Chiunque può ordinare per il giorno dopo il menù, che gli sarà quindi consegnato nel momento in cui è pronto. Bene. Benissimo, non solo pizze, quindi pony e pizza, ma anche alta cucina italiana. Grazie, esatto. Deborah, complimenti. Ciao, grazie, a presto. Grazie, un saluto a tutti e grazie dello spazio che mi avete invitato. Segretario, mi chiedo, queste idee sono bellissime ovviamente, anche perché poi bisogna intendersi, è gente che non ha un background, nessuno di questi lavora in un'industria alimentare piuttosto che fa il cuoco, quindi sono idee genuine, vere, no? Che nascono dall'intuizione. Dopo che fine fanno dopo Idea 360? Ma diciamo che l'impegno che ha preso la fondazione per le idee finaliste, quindi per le nuove idee che sono arrivate in finale, la prima ha vinto e, come ho detto, la realizziamo, è quella di entrare nell'area di Idea 360 che si chiama Sostieni, dove vengono messe in vetrina, se così posso dire, e quindi potranno usufruire di... altri, una borsa sostanzialmente. È una borsa in cui una borsa, una sorta di marketplace in cui noi offriamo queste idee, ma ci saranno sicuramente qualcuno, le idee, come ha detto lei, le trovo molto interessanti, molto varie, molto interessanti, quindi possiamo trovare altre aziende, fondazioni, istituzioni che hanno voglia, sì, di realizzarle. Infatti noi spesso parliamo di innovazione in questo programma, segretario, no? Però poi alla fine rimane un concetto generico. Questi che abbiamo visto e quello che vediamo ancora adesso sono innovazione vera, no? Nel momento in cui elaborano segmenti di innovazione su settori che sono apparentemente stabili, non è pasta e pomodoro, ma c'è un mondo, un universo sconfinato, che è quello che ha fatto Luigi Spagnolo anche con la sua guida al gusto italiano. Luigi, ciao. Salve. Ciao, tu sei dove ti trovi e che cosa fai? Io sono abito a Como, attualmente sono però in Francia perché sono un dottorando in informatica del Politecnico di Milano, attualmente sono a Rennes, Università di Rennes, per le mie ricerche. Mi incuriosisce del tuo... Chi fa parte della... è frutto delle mie ricerche. Ecco, mi incuriosisce, Luigi, proprio il titolo che hai dato, proprio Gustavo, che è più un maggiordomo che un cuoco, no? Sì, è il gioco di parole anche con il gusto. Con il gustare, no? Sì, infatti, senz'altro una bellissima idea. È anche, diciamo, una specie di maggiordomo, una guida alla cucina italiana. L'idea è quella di mostrare che si può cucinare un piatto sano, di qualità, anche con ingredienti che si hanno in casa, oppure a volte si va al supermercato, si vede una verdura strana e non si sa bene come cucinarla. Allora l'idea è quella di prendere, di andare su questo sito o su l'equivalente per iPhone o per o qualsiasi smartphone, certo, piattaforme, e dire: voglio una ricetta con questi ingredienti, che con una certa quantità di questi ingredienti, o anche senza un ingrediente se sono intollerante, per dire. No, è chiarissimo, farina, chiarissimo, è davvero una bella idea. Complimenti, Luigi, spero che qualcuno te la sostenga, come diceva il segretario. Ciao, alla prossima. Ciao Luigi. No, poi qui entriamo nella sfera personale, no? Con la vita frenetica che si fa nelle grandi città, avere una guida di questo tipo probabilmente è una necessità più che una speranza. Concludiamo la nostra puntata, segretario. Idea 360 ha quindi lanciato questa idea di mettere insieme la tecnologia con l'alimentazione. Che cos'altro avete in programma di fare con Idea 360? Con Idea 360 abbiamo in programma diversi progetti, per adesso li stiamo vagliando. Due progetti nel senso di due idee progettuali, o per meglio dire due concorsi per idee. Il primo è un progetto dedicato ai giovani dell'Abruzzo, e lei sa quanto l'Abruzzo ne può aver bisogno, proprio basato sul creare in questi giovani, attraverso sempre le nuove tecnologie, creare delle vocazioni. In qualsiasi campo, ma basato sulle nuove tecnologie. L'altro progetto, che verrà lanciato proprio lunedì prossimo, e che è molto diverso, devo dire, anche se lo unisce al primo il tema dell'innovazione sociale, è un progetto che facciamo, credo che sia un progetto in cui noi crediamo molto. È un progetto che si rivolge al disagio sociale, al disagio psichico, con l'obiettivo di favorire l'inserimento delle persone che hanno avuto, che hanno dei problemi di salute mentale, in azienda. E i dati che abbiamo raccolto ci dicono che il disagio psichico in tutte le sue forme è un aspetto che ci riguarda un po' tutti da vicino. Una persona su quattro, dicono, ha sofferto di disagi. E quindi far sapere, d'accordo, far conoscere, togliere anche i tabù che ci sono attorno a questo tema, e favorire l'inserimento in azienda delle persone che soffrono di questi problemi, ci sembra assolutamente meritorio. Un'altra cosa che mi piace, ne approfitto per salutare poi il segretario generale, se abbiamo la conclusione di questa vostra iniziativa, è una mancanza del sistema anche formativo italiano, quello di abituare i giovani all'impresa, no? Di stimolarli a pensare non solo al posto di lavoro, che è stata un po' la piaga che ci ha contraddistinto negli ultimi decenni, ma a stimolare la ricerca dell'impresa. Grazie a Bruno Ambrosini, segretario generale della Fondazione Accenture. Io ringrazio lei, è stato un piacere. È stato un piacere anche per noi ascoltare questi ragazzi così intelligenti. Grazie ovviamente ad Anita Panizza, che ha reso possibile il programma, in redazione, e a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che Ferribot potete riascoltarlo anche su radio24.it. A risentirci.